5. È una tranquilla notte di regime. Le squadre antidroga sparano agli spacciatori. Dalle Ferrari in corsa, gli spacciatori rispondono al fuoco. Centinaia di gorilla scortano i gerarchetti verso le zone del vizio, ghinze, testarci e perversai verso i night, i pippe, i party e i bingo. Il centro è intasato. Due strade sono chiuse per sfilate di moda. La polizia vigila. Ieri c'è stato uno scontro tra gli stilisti governativi e quelli del governo ombra. Sono scoppiate zuffe in passerella, 7 indossatrici ferite e uno stilista morto con un tacco a spillo in fronte. Adesso sfilano armati. La vecchia Mara e io stiamo attraversando il ponte sul fiume Emolocinca, quello che separa Ginza dai quartieri periferici. Sotto questo enorme ponte vive molta gente, per lo più africani, albanesi e inglesi. Sotto non vuol dire nel fiume, lì ci sono eserciti di topi infuriati e l'acqua fuma di veleni come la pentola di una strega. La gente vive dentro grandi amache sospese tra arcata e arcata, oppure nelle intercapedini dei piloni. La polizia cerca di impallinarli al volo, ma non è facile, da 70 metri. Scalano le pareti di ferrocemento come gechi, scavano buche trappola lungo la strada che corre sul ponte. Ogni tanto un'auto ci casca dentro e fila giù, per 70 metri, dritta nel fiume. E loro spolpano, non buttano via niente. I loro cappotti d'interno di Mercedes sono assai ricercati. Stasera sembra tutto normale. Il gigantesco groviglio di auto arranca in una nube di gas. Un'intera corsia è chiusa da anni per lavori in corso. Nessuno sa più quali lavori. Sulle montagne di terriccio e tra le buche corrono i fuoristrada, per cui questa ormai è una corsia preferenziale. L'auto della vecchia Mara May è una AW, Afterworld 2000. Le fanno a gambettola, con i rottami dei tanchi di guerra. Questa una volta era un tank iracheno. Sono rozze ma molto robuste. Se lavori per il regime, puoi chiedere il permesso di tenere la torretta come cannoncino. Mara non ce l'ha, ma se ne frega. Sorpassa a destra. Lotta fiancata a fiancata con le Volvo Thor, con le Fiat Macho, con le Toyota Samurai, tutti i nuovi modelli da ingorgo che piacciono tanto ai guerrieri stradali. Siamo quasi a metà del ponte quando ci blocchiamo. C'è una Rolls Royce in mezzo alla strada, 16 metri di limousine nera, con dentro uno che telefona. Da varie parti gli piovono contro biglie di ferro, ma il guidatore ha i vetri blindati. Dietro di noi arriva un camion con lo stemma dei camionisti dell'Apocalisse, una coppia di tir da 240 km/h. Il tir è alto 6 volte noi. A destra della cabina è appesa una Madonnona luminosa con in mano un cuore di Cristo intermittente. A sinistra c'è un poster tridimensionale con un'orgia di benzinaie. Sopra la cabina, un paio di corna di cervosauro e una fila di teschi antinebbia. Scende un biondo baffuto. Si appoggia alla Rolls e dice: «Facciamo un pisolino?» «Non mi rompa i coglioni», dice l'uomo della Rolls. «Sono del servizio finanza e sono collegato con la borsa di New York. Se non sto fermo, non capto il segnale telefonico. Questione di 5 minuti». «Ah, beh, se sono 5 minuti», dice il biondo baffuto e torna al suo posto. Subito dopo vediamo un'ombra uscire dal tir e passare sopra la nostra macchina. È il braccio di una gru con in fondo una piastra magnetica. Pesca la Rolls come nei giochetti del Luna Park, la solleva delicatamente, la fa penzolare fuori dal ponte e pluff, la molla. Passiamo. «Non li sopporto quelli che bloccano il traffico», dice Mara May, «ma neanche i camionisti dell'Apocalisse mi vanno giù. In questo modo c'è troppa violenza e poco amore». «Ben detto», dico io, allontanandole la grinfia dalla mia cintura. Lei tiene il broncio. Usciamo dalla tangenziale e prendiamo una vecchia periferica che ci porterà ai quartieri dormitorio. È uno stradone delimitato da due terrapieni di immondizie su cui stormi di gabbiani strillano la loro gioia di mendicanti. Sopra i terrapieni fioriscono ingegnose soluzioni al problema alloggi. Per primo incontriamo il Grundig Village, dove la gente vive dentro gli scatoloni dei televisori. Più in là c'è Tubopoli, dove si abita dentro le vecchie condotte del gas. Dopo Tubopoli c'è Camperland, la città smovente, e poi la zona degli orti miracolosi, dove alcuni vecchi artisti del settore ritagliano centimetri quadrati di cavoli e patate in mezzo alle erbacce e al catrame. Al chilometro 28 c'è un orto famoso, perché il proprietario riesce a far crescere banane sotto un cartellone pubblicitario dell'Air Sudan. Dopo il 30° chilometro la strada si fa impervia e si intravedono sullo sfondo i quartieri dormitorio come una catena montagnosa. Una polvere nera ci avvolge. Non è più né notte né giorno. Non è andato a vivere in un bel posto, Grapatax, dico io. La gente dimentica, fa la vecchia. Quanti comici sono morti in miseria? Olio, Keaton, Socrate. E le dive porno? Perché secondo te da 40 anni nessuno mi fa più proposte di lavoro? Proprio non lo so. Arriviamo in un crocevia che una volta doveva essere molto frequentato. Ora sull'asfalto crescono agavi e cactus. Dell'antico splendore è rimasta solo una serie di cartelli stradali, tutti decorati di scritte con incitamenti alla squadra, alla donna amata, insulti alla squadra, alla donna odiata, ai vizi del nord, a quelli del sud, a nostro signore distratto. Il palazzo di Grapatax è un torrione consunto, la Tollo K, 20 piani con tutti i vetri rotti. Due o tre ragazzini giocano a golf sul prato violaceo. Una vecchia cercatrice di radicchio selvatico, col fucile a tracolla, ci osserva da lontano. È pericoloso girare a quest'ora. Uno dei ragazzini ci ha puntato e arriva sfoderando una pistola grande come lui. «Fuori soldi, stranieri!» dice. «Rapini sempre la gente con un mazzo di fiori?» gli chiedo. Il bambino ha infatti in mano un grosso mazzo di fiori di carta. Me ne porto sempre dietro uno o due per imprevisti del genere. «Devo cambiare pusher!» dice il bambino, allontanandosi con aria meditabonda. La vecchia Maramei si appoggia a me tutta dolcezza e spigoli e mi fa l'occhiolino. «Così non sapevi più fare trucchi, vero?» «Solo per legittima difesa.» Entriamo nel palazzo e chiamiamo l'ascensore. Lo sentiamo scendere con un sibilo da jet. Arriva e dentro ci sono due nani che sonnecchiano e un terzo che prepara il caffè su un fornello. «Salve Raul, salve Bobo, salve Nick», dice la vecchia. «Vi presento un amico, un mago Baol. Loro sono gli gnocchetti. Forse ne hai sentito parlare.» «Come no? I famosi acrobati comici. Vi ho visto un paio di volte. Eravate fantastici.» Bobo si mette a piangere. «Non gli piace parlare del passato», dice Raul. L'ascensore parte rumoroso e lento. Dentro fa caldo. Ci sono brandine e un cucinotto. «Siamo venuti ad abitare qui 3 anni fa», dice Raul. «Non ci è mai piaciuto chiuderci in un appartamento. Siamo abituati a vivere in alto. Quando non stavamo sul filo o sul trapezio, dormivamo dentro le astronavi dell'otto volante. Bobo, per esempio, non ha mai messo piede a terra. Si è sposato sui trampoli. La polizia ha provato a scacciarci dagli ascensori e prima o poi ci riuscirà. Magari domani.» Nick scoppia a piangere. «Non gli piace parlare del futuro», dice Raul. «Ma non eravate 4 una volta?» Bobo piange dirotto. «Sì, c'era anche George», dice Raul. «Il più piccolo. 63 centimetri con le scarpe. Insieme facevamo il quadruplo Hans Zellman incrociato al trapezio, unici al mondo. Facevamo anche il salamino volante, uno attaccato ai piedi dell'altro. Poi George incontrò un tipaccio, uno del regime. Gli promise di lanciarlo in televisione. Gli disse che gli avrebbe fatto fare stretching in palestra e lo avrebbe allungato. George ci cascò. Dopo qualche mese ci venne a trovare. Era alto 1,60 m. Con certi modi da fighetto, presentava un programma di barzellette razziste alla TV Liga Artica. Fu lui che coniò lo slogan «Più a nord di noi non c'è nessuno». Faceva le convention e i meeting, beveva con la cannuccia, non era più lui. L'ambizione lo rodeva. Continuò a tirarsi le ossa con attrezzi sempre più raffinati. Arrivò a 1,85. Fu la sua fine. Un giorno andava in moto sulla Peluso Highway. Vide un passaggio a livello. Spinse la moto a tutta birra per passarci sotto, perché, vedi, anche se era 1,85, dentro aveva ancora l'istinto del nano, e i nani passano sotto a tutto. «Però quella volta non passò», disse Nicky. «O almeno passò tutto, meno la testa.» «Brutta storia», dissi io. I tre nani, commossi, si soffiarono il naso nella mia giacca. A una parete dell'ascensore vidi una foto che li ritraeva ai tempi d'oro, nel loro costume di scena. In un'altra scherzavano con Buster Keaton alle cupole. In un'altra ancora c'era Bobo il giorno del suo matrimonio con Eva Moore del Crazy Horse. «E adesso che lavoro fate?» dissi rompendo il silenzio. Raul si mise a piangere. «Non gli piace parlare del presente», dissero gli altri. L'ascensore si fermò qualche metro sotto il livello del piano. Salimmo con una scala di corda. Grapatax abitava in una soffitta lunga e stretta, col tetto a vetri. Sul tetto stavano, immobili, centinaia di corvi che ci guardarono entrare girando la testa tutti insieme. La soffitta era spoglia. Intravidi nel fondo una poltrona e un tavolino. Sulla poltrona c'era un plaid di lana. Sotto il plaid c'era il grande Grappatax.